comincerei con il vostro permesso, perché comincerei. Allora, cominciamo così abbiamo da sfruttare al meglio il tempo a disposizione. E comincio subito con una serie di ringraziamenti, naturalmente al professor Richard Falk, che è qui con noi questa sera dopo che è stato ospite della commissione parlamentare. In particolare della sua presidente Locatelli, qualche giorno fa, l'altro giorno, per raccontare la vicenda di cui riferirà anche qui in prima persona. Il professor Richard Falk è professore emerito di diritto internazionale all'Università di Princeton e di Santa Barbara ed è autore di numerosissime pubblicazioni sull'argomento, nonché autore famosissimo di un rapporto all'ONU che per ragioni, diciamo così, di carattere puramente formale non è diventato un rapporto fatto proprio dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi ringrazio innanzitutto lui per questa presenza. Ringrazio il professor Daniele Archibugi, che è un autore, lo stesso di professore di diritto, e che con l'occasione questa sera ci presenterà l'ultimo suo lavoro scientifico su un tema che comprende ma non è esaurito dall'argomento che toccheremo questa sera, nel senso che l'argomento del suo ultimo libro è Delitto e castigo nella società globale, che quindi comprende certamente l'argomento di cui ci occupiamo questa sera, ma ne fa un paradigma da estendere ad altre situazioni e ad altri problemi. Alla mia sinistra c'è Daniele Cioli di Assopace. Donato. Questo Luisa ha sbagliato. Che rappresenta Assopace e questo mi consente semplicemente di introdurre l'argomento del perché la Fondazione Basso e in quale quadro la Fondazione affronta l'argomento che genericamente va sotto il nome di questione israelo-palestinese, che forse più correttamente si dovrebbe dire conflitto israelo-palestinese, o meglio ancora più precisamente occupazione israeliana del territorio palestinese. Noi abbiamo deciso come fondazione di occuparci di questo argomento a seguito di una sollecitazione pervenuta alla Fondazione da una serie di organizzazioni militanti che si occupano di tener vivo nell'opinione pubblica italiana, per quanto possibile, il punto di vista palestinese nei confronti di questa vicenda. E lo faremo con non tanto questa volta con la formula del seminario spot che dura un giorno e mezzo e poi finisce nel nulla, ma lo faremo tenendo viva l'attenzione con una serie di iniziative sistematiche che partiranno dal 30 novembre, quindi poco più di un mese, con un'introduzione che affronterà l'argomento nel modo in cui lo può affrontare la Fondazione Basso, ovvero con grande rigore scientifico, e quindi affronteremo la questione a partire dalla dichiarazione Balfour del 1917, proprio nello stesso mese in cui ricorre il centenario. Quindi avremo in questa sala tre storici, di cui adesso che abbiamo già individuato, uno di parte israeliana, uno di parte palestinese e un italiano, di cui consentitemi per ora di non fare nomi perché aspettiamo la risposta e la conferma da parte loro della loro presenza, e poi affronteremo via via tutta una serie di tematiche prendendole ovviamente dal punto di vista della pluralità dei diritti violati. E questo è l'approccio che tenderemo a portare avanti nel corso dei prossimi appuntamenti e dei prossimi mesi. Ora io do immediatamente la parola al professor Folk per il suo intervento, non senza però ringraziare preventivamente la signora Francavilla per il lavoro che gratuitamente si presta a fare per noi questa sera di traduzione consecutiva. Grazie. L'incontro di questa sera è stato organizzato dalla Fondazione Basso in collaborazione con Assopace Palestina, la cui presidente, come sapete, è Luisa Morgantini. Luisa naturalmente avrebbe voluto essere presente stasera, ma mi ha pregato di portarvi le sue scuse e di dirvi brevissimamente i motivi della sua assenza. È dovuto a un lutto, non della famiglia di Luisa, ma di una sua carissima amica e collaboratrice che abita a Supino, provincia di Frosinone, e che ha perduto la notte scorsa il padre. Quelli di voi che conoscono Luisa probabilmente sanno anche della autenticità e dell'affetto con cui lei vive le sue relazioni di amicizia, per cui non si meraviglieranno se Luisa ha scelto di non partecipare stasera e stare insieme alla sua amica. Io credo che noi, più che scusarla, possiamo solo condividere questo momento suo di tristezza e ammirare ancora una volta l'affettuosità dei suoi rapporti. Thank you very much, Mr. Chairman, friends. I'm very sorry also that Luisa Morgantini cannot be here, though I'm very glad that Luciana Castellina is here. So bad news is accompanied by good news. And I would say also that it's a pleasure for me to renew contact with the Basso Foundation, which I had worked closely with Lelio Basso at the time when the Permanent People's Tribunal was founded back in the 1970s, when most of you weren't born. I had the pleasure then of working on the language of the Declaration of the Rights of Peoples that was issued in 1976, which was deliberately chosen as the 200th anniversary of the U.S. Declaration of Independence, and the idea was to show the contrast between those ideals 200 years ago and the more contemporary practices which departed from them in so many dramatic ways. Grazie mille, signor Presidente, cari amici. Grazie mille, signor. Grazie mille, signor Presidente e cari amici. Anch'io sono molto triste del fatto che Luisa non possa essere qui con noi oggi, ma contemporaneamente sono lieto che Luciana Castellina possa essere qui, quindi non ci sono sempre solo brutte notizie. Vorrei sottolineare come sia un piacere essere di nuovo qui, in contatto con la Fondazione Basso nuovamente. Mi ricorda i tempi negli anni 70 quando era stato fondato il Tribunale delle Persone, molti di voi non erano neanche nati ancora, e mi ricordo che nel 76 avevo proprio lavorato sul linguaggio utilizzato per stabilire i diritti di questo tribunale, e questo quando, proprio nel periodo in cui si festeggiavano i 200 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Quindi è stato interessante anche per me fare un lavoro sulla differenza tra i valori della dichiarazione di indipendenza dei tempi e di come invece la situazione sia anche drammaticamente cambiata oggi. I remember with great satisfaction several of the tribunal sessions that I participated in, including the one on the Philippines, on the treatment of the Armenian massacre back in 1915, Nicaragua, several others. And what I think was really groundbreaking was this idea of carrying on the tradition initiated by the Russell Tribunal during the Vietnam War of acting on behalf of the peoples of the world in upholding international law, at least symbolically, when governments and the United Nations failed to act or was unable to act. In other words, the Permanent People's Tribunal filled what I would call a normative vacuum in international society that still exists and represents a challenge and responsibility for all of us that care about international law and international and global justice. Mi ricordo ancora di molte sessioni di questo tribunale, mi ricordo tra i vari casi quello delle Filippine, oppure del massacro degli armeni nel 15, oppure ancora il caso del Nicaragua. E lì c'era stata una cosa davvero innovatrice, ovvero il fatto che questo tribunale portasse avanti la tradizione del tribunale durante la guerra del Vietnam, quindi il diritto internazionale anche simbolicamente aveva una sua valenza. Nel momento in cui le altre istituzioni, pensiamo anche agli Stati Uniti, non agivano, il tribunale era lì e faceva e riempiva un vuoto all'interno della società civile. E lo fa ancora oggi. Questa è la sfida per tutti quelli che lottano e credono nella giustizia globale e nel diritto internazionale. And finally, by way of introduction, it's a particular pleasure to share the evening with my dear friend Daniele Arcibughi, and who instructed me that my main role was to encourage all of you to buy and read his book, which I truly believe is a major contribution to our understanding of the role of international criminal law, and particularly the struggle to hold those in power accountable for the crimes they commit. And it's at the very core of the undertaking that inspired Lelio Basso and before him Bertrand Russell to undertake this kind of civil society initiative. Infine vorrei anche dire come sia per me un vero piacere poter trascorrere la serata con il mio amico Daniele Arcibughi, che mi ha detto che il mio ruolo Arcibughi. Arcibù, chiedo scusa. Chiedo scusa, ho preso la pronuncia. Così mi ha chiamato. My Italian is slipping. E che mi ha spiegato che in realtà il mio vero ruolo qui sia quello di incoraggiarvi a comprare il suo libro, che io ritengo sicuramente un contributo fondamentale per poter capire meglio il diritto penale internazionale e anche l'importanza di poter incolpare coloro che sono i veri detentori del potere e di portare avanti la grande battaglia di Bertrand Russell come anche quella di Lelio Basso. Let me now turn to the theme of our meeting, and particularly the ordeal of the Palestinian people that have endured 50 years of occupation and at least 70 years of struggle, and with many Palestinians existing in refugee camps for these incredible length of time and with no end in sight. It's a extraordinary set of circumstances where a people that had lived in their own society, what they thought of as their own society for generations, suddenly became aliens in their own homeland and have endured terrible consequences over this extraordinary length of time. And beyond that, in a more academic sense, I suppose, I want to underscore the degree to which the injustices that the Palestinian people have and are enduring represent, can be depicted from the perspective of Israeli violations of international law. It is not always the case that injustice and unlawful behavior are this closely correlated. Sometimes there's a what international law tries to do is to protect the interests of the powerful, particularly in the economic sphere. But in this kind of circumstance where fundamental issues of human rights are at stake, international law does tend to go in a direction that is converges with the undertaking of global justice. Adesso vorrei arrivare all'argomento di oggi, in particolare alle tragedie, alle grandi sofferenze vissute giorno dopo giorno dal popolo palestinese. Pensiamo a 50 anni di occupazione, 70 anni di lotte, di sofferenze. Pensiamo a tutti coloro che sono ancora e saranno per chissà quanto tempo nei campi dei rifugiati, e senza vedere una luce alla fine del tunnel. È una situazione molto particolare. Alla fine si tratta di una... Parliamo di palestinesi che credevano per generazioni di aver vissuto all'interno di una società e che di colpo si risvegliano come degli stranieri in questa società, non ne fanno più parte e continuano a pagarne adesso le conseguenze. Quindi io, da un punto di vista accademico, vorrei sottolineare proprio le ingiustizie che continuano a vivere queste persone, a sperimentare, e anche le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Non sempre le ingiustizie di cui vi ho accennato e questa violazione del diritto sono correlate. In questo caso però devo dire che il diritto internazionale va contro l'idea di giustizia globale. One way to measure injustice is to identify the failures to comply with international law. And with respect to the relationship between the Israeli administration of the Palestinian people and their rights under international law, I'd mention just four areas that could each be discussed in some detail. But the first, most general way of describing the Palestinian ordeal is the denial of entitlements to the Palestinian people that are confirmed by contemporary international law. And that means particularly the inalienable and fundamental right of self-determination, which is the right that encompasses all other rights. It's the common Article 1 of the two human rights covenants. The second area that is of great significance, especially to those Palestinians living under occupation, is the Fourth Geneva Convention, which governs what is called in international law belligerent occupation, that is, occupation of a territory by foreign military forces. And there are many specific violations of the Fourth Geneva Convention, but I would call attention to just two of these: the unconditional prohibition of collective punishment, which Israel consistently imposes on the Palestinian people in a variety of ways, most dramatically on the people of Gaza, who have suffered an unlawful blockade for more than a decade and have also, despite their complete vulnerability, been subjected to periodic massive military attacks on at least three major occasions. And prohibition of collective punishment is contained in Article 33 of the Fourth Geneva Convention. And then Article 49, Paragraph 6, unconditionally prohibits the establishment of any kind of community on the part of an occupying power. In other words, it unconditionally prohibits Israeli settlements. And these have been continuously established ever since the occupation in 1967. And even though most of the countries in the world declare that they are illegal, including even the United States up until the advent of our most recent notorious president, but these settlements not only continue to be built, they're being built at an accelerating rate, and they are a way that Israel conveys to the world the end of any imagined solution by way of the establishment of a Palestinian state. The two-state solution is dead, and dead in part because of the impact of these extensive settlements. Come possiamo quindi misurare questa ingiustizia di cui vi ho parlato? Beh, intanto si può dire che si tratta del mancato tentativo di aderire alle norme dettate dal diritto internazionale. Vi sono alcune aree, quattro specifiche che possono essere identificate, ma adesso vorrei dirvi in termini un po' più generici che intanto si tratta, quali sono quindi queste violazioni principali? Intanto la completa mancanza di rispetto dei diritti dettati dal diritto appunto internazionale. E qual è il più importante? Il diritto all'autodeterminazione, che è il diritto che ingloba tutti gli altri diritti, e lo troviamo nell'articolo 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Un altro punto, e qui penso alla quarta Convenzione di Ginevra, viene chiamata l'occupazione belligerante, quindi il divieto di occupare in modo belligerante. Quindi parlavo di occupazione belligerante, cosa vuol dire? L'occupazione da parte di un esercito straniero di un territorio. Vi sono anche molte altre violazioni. Israele continua a portare avanti delle punizioni di massa collettive e lo fa di continuo in modi sempre diversi. Pensiamo alla striscia di Gaza. Le persone lì soffrono del blocco già da più di una decina di anni ormai. E nonostante il fatto siano completamente inermi, vulnerabili, vengono sistematicamente attaccati dalle forze militari. E qua penso in particolare a tre occasioni. L'articolo 43, l'articolo 49, paragrafo 6 della Convenzione, proibisce inoltre di instaurare una comunità da parte delle forze, di queste forze belligeranti straniere. E questo invece lo vediamo, vediamo che capita tutti i giorni. Di cosa parlo? Parlo degli insediamenti da parte di Israele. Dal 67, quindi dall'occupazione, a oggi gli insediamenti, questo processo va avanti e nonostante varie nazioni, tra cui anche gli Stati Uniti, fino almeno all'elezione del probabilmente più famoso presidente che abbia mai avuto, nonostante quindi le nazioni dichiarino illegale ciò che accade, Israele continua ad andare avanti con questo suo progetto e con questo comunica chiaramente al mondo che non vi sarà uno Stato della Palestina e che quindi io ritengo che proprio per via degli insediamenti in particolare l'idea della soluzione dei due Stati ormai sia sepolta, morta e defunta. Let me mention just two further areas of gross violation of international law. The first is the Israeli defiance of the International Court of Justice's opinion of 2004 that by a 14-1 vote declared the separation wall that Israel built to be in total violation of international law. It should be dismantled and the Palestinians compensated for any harm. When you get a 14-1 vote in the International Court of Justice, you know that international law is clearer than any kind of reasonable argument to the contrary. In other words, that's very rare that you get this, especially on an issue pertaining to a Western interest such as it has in Israel, that you get this kind of one-sided vote at the World Court. And the fact that it was defied by Israel is a way of indicating that if you have geopolitics on your side, you don't have to worry about complying with international law. And that's a very bad and dangerous lesson that Israel is teaching others and teaching governments of the world. The fourth and the last area that I will mention is what this whole structure by which Israel maintains its identity as a Jewish state at the expense of the Palestinian people as a whole, which has assumed the character of an apartheid state. And that means that the Jewish people as a race, as that's defined by the International Convention on Apartheid, have developed a series of practices designed to fragment the Palestinian people. In other words, the underlying conflict has been misunderstood as being fundamentally about territory. It is more correctly understood as fundamentally about people. And therefore, the non-territorial aspects are very important. Millions of Palestinians are languishing in refugee camps in neighboring countries. And that's not accidental. There was no way the Zionist project could establish a Jewish majority in Palestine without the expulsion of several hundred thousand Palestinians that were living there. And as many as 700,000 were forcibly expelled and denied any right of return in 1947, 1948, and others in 1967. So Israel has always had this puzzle: how do we stay democratic and Jewish in a Palestinian society? And the only way you can do that is by getting rid of a lot of the people and not letting them come back, while you try to augment the Jewish population to the extent possible. It is, in my judgment, essential to understand that if you want peace for both peoples, the slogan should be end apartheid, not end occupation. Occupation assumes a territorial dispute. Ending apartheid puts the precondition of a sustainable peace on dismantling these structures of racial domination. And that's what led to peace in South Africa. It was not some moral revolution on the part of the elite. It was their decision that to avoid a racial war, the only way to do that was to abandon apartheid and to peacefully have a transition to a constitutional pluralistic democracy. And that was kind of a political miracle then, and it would be in Israel today. I should stop here, or Daniele will get very angry at me. Adesso passiamo alle altre due aree di violazione di cui voglio parlare. E qua penso all'atteggiamento di noncuranza da parte di Israele nei confronti della decisione presa dalla Corte Internazionale di Giustizia, quando 14-1, quindi con una maggioranza praticamente unanime, è stato stabilito che la costruzione del muro, chiamato anche muro di separazione, viola i diritti internazionali, che di conseguenza questo muro doveva essere distrutto, e inoltre la popolazione palestinese avrebbe dovuto, sempre secondo la decisione della Corte, ottenere anche un risarcimento. Qui vorrei precisare che questo è un risultato notevole da parte della Corte Internazionale. Non è una cosa piuttosto rara che si arrivi a 14-1, soprattutto quando parliamo di Israele o di questioni importanti, insomma, per il mondo occidentale. Nonostante l'importanza della decisione, Israele ha deciso di non reagire. E questo cosa ci dimostra? Beh, a mio parere questo dimostra che se si ha una situazione geopolitica favorevole dalla propria parte, allora non c'è bisogno di preoccuparsi. E questo è qualcosa di estremamente rischioso, perché Israele così mostra ad altre nazioni che è possibile non reagire anche di fronte alla Corte internazionale. Adesso vorrei parlare poi della quarta area, ovvero di come Israele abbia creato una struttura che le permettesse di rimanere uno Stato ebraico, di garantire uno Stato ebraico. E come ha ottenuto questo? Creando uno Stato apartheid. L'idea è quindi che il popolo palestinese andava frammentato. E qui penso che spesso si tenga a pensare che quando parliamo del conflitto israelo-palestinese si tenda a pensare soprattutto a un conflitto territoriale, e invece no, si tratta di un conflitto di popolazione. Ed è per questo motivo che vi sono via tutta una serie di aspetti non territoriali estremamente importanti di cui tenere conto. Pensiamo che al momento vi sono milioni di palestinesi che vivono o in campi oppure comunque all'estero. Ebbene, questa non è una coincidenza. Com'era possibile ottenere una maggioranza Israele, quindi ottenere una maggioranza ebraica? In modo molto semplice, liberandosi della popolazione palestinese. Ed è questo che è successo negli anni. Quindi Israele si è chiesta come è possibile garantire uno Stato democratico e ebraico all'interno però di una società palestinese. Ed è questa la soluzione, liberarsene. Quindi per me è essenziale che ci si renda conto di questo punto e che se vogliamo ottenere la pace tra le due parti dovremmo abbandonare lo slogan di mettiamo termine all'occupazione, ma piuttosto mettiamo termine all'apartheid. Solo così sarà possibile creare delle precondizioni per smantellare questa struttura ideata da Israele. E qui ovviamente penso al caso dello Stato del Sudafrica. La decisione che era stata presa non era dettata semplicemente da principi morali, ma ci si è resi conto che per evitare una guerra a sfondo razziale era fondamentale mettere da parte l'apartheid e garantire una transizione pacifica verso uno Stato pluriculturale. Si tratta di un vero miracolo politico. Let me just say a few final things about justice, global justice, beyond the specific context of the Palestinian national struggle. And I think the greatest challenge ever since the Nuremberg judgment at the end of World War II was to see whether there was a way of creating a political climate in the world so that equals would be treated equally. So far, including at Nuremberg itself, this was an exercise in victor's justice, in the sense that the crimes of the victors were granted impunity. And as horrifying as the Nazi crimes of genocide were, the dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki were a great crime. And had those atomic bombs been dropped by Germany on Britain, and Germany had gone on still to lose World War II, there's no question, in my mind, that nuclear weapons would have been criminalized and probably never developed by the West. It's very important, therefore, if we want a legal order, that we have to treat equals equally. And that means neutralizing geopolitics, which is the foundation of impunity. And it has continued to be the characteristic of international criminal law, where leaders of Africa are held accountable, where losers to the West, like Milosevic or Saddam Hussein, are held accountable. But Tony Blair and George W. Bush are outside the circle of accountability. And as long as that double standard exists, it's hard to say that this is a legal order of criminal law. You can say, it is true that the people being punished have done horrible things. And the liberal position is to say, you do what you can in terms of applying law to outrageous behavior. But the bad message, which was, I think, very well expressed by the Mexican delegate at the founding of the UN, which was, we've designed an organization that controls the mice while the tigers are free to roam as they wish. And so let me end by saying that the cause that stimulated the Lelio Basso to create this Basso Foundation and the International and the Permanent People's Tribunal is as alive today or more so than it was 30-some years ago when this initiative was originally taken. And so I hope that its work will continue to inspire the good people of the world. Thank you very much. Per concludere vorrei parlare in modo più generico di giustizia globale. E qua penso a partire quindi dal processo di Norimberga in poi fino ad oggi. L'idea è quella, come si può trovare un modo per creare un clima politico che permetta, che faccia sì che gli uguali possano essere, perché siamo tutti uguali, gli uguali possano essere trattati anche di conseguenza, quindi in modo equo. Nel caso di Norimberga possiamo vedere come si è trattata della giustizia dei vincitori in realtà, perché c'è stata una parte, se vogliamo, che è stata anche impunita. Pensiamo, ovviamente ci sono state delle atrocità da parte dei nazisti, però se pensiamo ai casi delle bombe rilasciate su Hiroshima o Nagasaki, e se pensiamo un attimo invece, cambiamo un po' la storia, voi credete che se fossero stati i tedeschi, quindi la Germania, prima della fine della guerra, a sganciare queste bombe nucleari, perché no, in Gran Bretagna? Beh, secondo me a questo punto le armi nucleari sarebbero state demonizzate e non continueremmo ad utilizzarle oggi. È questo che intendo per impunità. Quindi, come possiamo fare sì che gli uguali vengano trattati in modo equo? Ebbene, qui sarebbe necessario poter neutralizzare questa politica del diritto internazionale che sostiene questo concetto di impunità di cui vi ho parlato. Pensiamo a vari leader africani, oppure a Milosevic, Saddam Hussein, loro sì sono stati ritenuti responsabili, no, per quello che hanno fatto, ma se prendiamo il caso di Blair o di Bush non possiamo dire la stessa cosa. Ed è questo quindi che deve cambiare. E qua a riguardo mi viene in mente ciò che un delegato messicano ha dichiarato durante la fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha detto: noi, l'organizzazione a cui diamo vita oggi, deve far sì che letteralmente che i topi possano girare liberamente senza aver paura che le tigri li divorino. E per finire vorrei dire che ciò che ha motivato l'Elio Basso, ciò che ha motivato, che ha portato alla fondazione del Tribunale delle Persone, è valido ancora oggi. Le iniziative che sono state lanciate tempo fa ci sono ancora e continueranno, ed è per questo che anche noi continueremo, in quanto vogliamo continuare a ispirare tutte le persone per bene che vivono nel mondo. Grazie molte al professor Folk. Pensiamo che questa introduzione di fatto costituisce l'introduzione al nostro seminario complessivo, perché ci dà un quadro che tocca un po' tutti i vari aspetti che noi vogliamo, intendiamo toccare nell'arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi. È con una soddisfazione proprio di casa della Fondazione Basso che sentiamo che questo nome è sinonimo nel mondo di battaglia per i diritti umani. E il ricordo di Lelio Basso infatti ci accompagna ancora in queste giornate, a partire dalla sua partecipazione al Tribunale Russell sul Vietnam e poi alla Fondazione per il Tribunale per i Diritti dei Popoli. E non è un caso che per esempio oggi Gianni Tognoni, segretario generale del Tribunale dei Diritti dei Popoli, si trovi in Ecuador per assolvere i compiti istituzionali proprio del Tribunale. Do adesso la parola a Daniele Archibugi per la presentazione e l'inquadramento del suo libro in questa tematica. A te la parola. Grazie tante. La prima cosa vorrei chiedere se per caso tra i partecipanti c'è qualche rappresentante dell'ambasciata israeliana. No, ecco, questo ci dispiace, perché sarebbe stato da parte nostra un grande, anche se c'è qualcuno che deve riferire all'ambasciata israeliana, e mandiamo il messaggio che ci dispiace che non ci sia nessuno dell'ambasciata israeliana che abbia potuto partecipare a questo dibattito, perché crediamo fermamente nel dialogo e saremmo stati contenti di avere un dibattito anche, come dire, ovviamente polemico, ma comunque un dibattito con qualcuno che avesse rappresentato il governo israeliano. E per me è un grande piacere essere qui nella Fondazione Basso, e quindi voglio cominciare con un racconto personale. Sono 32 anni che lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma la prima volta che sono entrato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche era 43 anni fa. Ero uno studente del liceo e ho accompagnato al CNR un mio amico, e tra l'altro conoscente anche della fondazione, Tullio Vigevani, che, ecco, c'è chi se lo ricorda, adesso professore di relazioni internazionali a San Paolo, e che era stato torturato in Brasile di fronte a sua moglie dall'altro era incinta, e che fu uno dei testimoni del Tribunale Russell 2, quello appunto organizzato da Lelio Basso, e che fu la continuazione del Tribunale per i crimini di guerra in Vietnam, E tra l'altro, voglio dire, suo figlio vive ormai a Roma da tanti anni ed è diventato consulente per coppie con problemi, insomma, così, un consulente familiare. E in quell'occasione, voglio dire, ho partecipato a questa idea della Fondazione Basso, che poi mi ha accompagnato per molti anni, che era quello di dire: lì dove non c'è la possibilità di ritenere o di incriminare i responsabili di determinati reati, perché non ci stanno le strutture giudiziarie, non c'era all'epoca ovviamente la Corte Penale Internazionale, non c'erano altri tribunali internazionali, lì dove i tribunali nazionali sono ovviamente impossibilitati dal farlo o addirittura conniventi con la struttura del regime, con repressiva del governo, c'è una possibilità dell'opinione pubblica e della società civile di usare il contraddittorio giudiziario per appunto fare giustizia e anche, pur senza avere la possibilità di dare una sanzione, di condannare qualcuno alla prigione, ma di dare almeno alle vittime la possibilità di far sentire la propria voce e far sentire che hanno subito dei torti. E questa è stata una grande lezione che Russell ha preso, che Basso ha ripreso da Bertrand Russell, aveva partecipato insieme a Sartre al primo tribunale per i crimini di guerra in Vietnam, che appunto che avevo letto tra i libri che stavano a casa, ed è stata una lezione che ha avuto un grande sviluppo. Dopo la fine della guerra fredda, la stagione dei tribunali internazionali è ricominciata, e questa stagione dei tribunali internazionali si basava sul fatto che i crimini sono commessi da individui e non da entità collettive. E faccio presente che l'individuare la responsabilità personale dei governanti per i crimini che commettono, per i crimini di guerra, crimini contro l'umanità, qualsiasi tipo di crimine, intende anche essere una salvaguardia per i popoli, perché i popoli non possono essere sottoposti a delle sanzioni quando queste sanzioni appunto avvengono per dei crimini che loro non hanno commesso. È quello che ad esempio abbiamo affrontato nel 1991, quando c'è stata la prima guerra del Golfo, e dove era evidente che Saddam Hussein aveva commesso un crimine, ma la guerra non riusciva a punire il crimine di Saddam Hussein e invece puniva una popolazione che era stata già stremata e vessata da quel dittatore. Quindi aveva avuto prima il danno di essere sotto il tallone di un dittatore sanguinario e poi pure il danno di essere bombardata dalla comunità internazionale, che voleva giustamente ripristinare la sovranità del Kuwait, ma lo faceva con i mezzi sbagliati, ossia con una sanzione a cui venivano esposti tutti quanti cittadini. E questo principio della responsabilità individuale vale sempre, vale ad esempio per tutti quanti i conflitti che abbiamo assistito, e la ragione per cui c'è stata la volontà di creare, immaginare, sviluppare degli strumenti tali di appunto responsabilità individuale era proprio quello di ottenere un senso di giustizia anche in alcuni casi avendo delle sanzioni. Milosevic è stato imprigionato e poi, voglio dire, è morto in prigione, Karadzic è stato condannato a 40 anni di prigione e così via, e allo stesso tempo di salvaguardare le potenziali vittime. Ora, come ha detto il mio amico e mentore Richard Falk in Italia, Riccardo Falco, sounds very well, you know? Come ha detto Richard, e ovviamente questo, come dire, idea della responsabilità individuale è spesso una idea che non si applica a tutti. E abbiamo visto persone che sono state condannate e persone che non sono state condannate. Era già successo a Norimberga, era stato denunciato a Norimberga anche da grandi farabutti. Pensiamo a Carl Schmitt, il grande giurista nazista, che poi appunto diventava, come dire, in punta di diritto, sollevava la questione appunto la questione della non responsabilità dei crimini commessi dai nazisti, o meglio ancora del fatto che erano tutti colpevoli e tutti innocenti. E io devo dire, in parte mi dissocio da questa visione, perché dico, purtroppo i processi sono pochi, i crimini sono tanti, ma il fatto che non si possa processare tutti quanti i criminali per crimini internazionali non è una buona ragione per non processarne nessuno. E alla fine, voglio dire, non è che perché tutti coloro che esercitano il potere sono colpevoli, è una buona ragione per dire che poi non bisogna assolvere tutti. Alla fine, da qualche parte bisogna cominciare. Verissimo. A Norimberga i vincitori hanno processato i vinti. Negli ultimi anni è successo molto spesso che hanno continuato i vincitori a processare i vinti, pensiamo a Saddam Hussein. In altri casi, diciamolo, sono stati potenti a processare quelli che il potere non ce l'avevano. Ricordiamoci un caso molto importante a cui dedichiamo un capitolo, e tra cui anche la Fondazione Basso se ne occupò molto, nel 1998, quando un pretore un po' stravagante in Spagna, il giudice Garzón, incriminò Augusto Pinochet, no? E quello fu un momento eroico, perché poi, anche se non è mai iniziato un processo, quando Pinochet tornò in patria c'è stata veramente l'apertura di una quantità di procedimenti in cui la scatola nera della dittatura cilena è stata aperta, e poi alla fine c'è stato un processo di transizione che è stato un processo di transizione molto diverso. Ma qui c'è qualcosa che non basta, perché dopo che abbiamo detto che c'è una responsabilità di commettere crimini e non una responsabilità di chi è per puro caso parte di quello Stato, ricordiamoci, quando era poco più che un ragazzino, nel 1972, Richard andò in Vietnam, ospite del governo vietnamita, e riportò negli Stati Uniti tre piloti che erano stati abbattuti con mezzi rudimentali dai Vietcong e che erano quindi prigionieri di guerra. E l'intelligenza del governo vietnamita, e poi Richard ci dirà se mi ricordo bene questa storia, fu quello di impacchettare questi tre prigionieri di guerra e restituirli ai rappresentanti del movimento contro la guerra del Vietnam degli Stati Uniti, con un chiaro messaggio, e il chiaro messaggio era di dire: noi non siamo nemici del popolo americano, noi siamo nemici del governo, cioè è il governo americano che è il nostro nemico. E quindi c'era questo chiaro messaggio, che era un messaggio importante, che era quello di dire: noi popoli della terra potremmo senz'altro essere tutti fratelli a condizione di avere i governi giusti. Ed era un messaggio senz'altro molto importante, e che probabilmente ha contribuito fortemente a cambiare un atteggiamento degli Stati Uniti, perché ovviamente, come sappiamo, la guerra del Vietnam i vietnamiti l'hanno vinta non dal punto di vista militare, ma l'hanno vinta perché anche all'interno degli Stati Uniti c'era una forte opposizione alla guerra che i governi americani avevano scatenato per diversi anni. Ci possiamo accontentare di tutto questo? Siamo veramente convinti che le colpe, come dice un internazionalismo a cui tutti noi apparteniamo, non più guerre, non più confini, ma solo ai confini rosse bandiere, come credo dica una delle canzoni internazionaliste, no? O possiamo anche pensare che a volte ci stanno delle responsabilità dei popoli? Ad esempio, quando questi popoli possono eleggere il proprio governo. E quando, ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, nel 1968, in libere e abbastanza eque elezioni, è stato, voglio dire, votato un presidente che intendeva continuare la guerra, e la stessa cosa è successa nel 2004. Quando noi stavamo negli Stati Uniti, c'era la guerra, l'invasione in Iraq, e con delle elezioni del tutto molto controverse, ricordatevi il manifesto che uscì, la prima edizione quella mattina, perché ovviamente c'era il fuso orario di 6 ore con la East Coast, 9 ore con la West Coast, il titolo fu Buongiorno America. Sei stato eletto con un sacco di voti, John Kerry, presidente degli Stati Uniti, l'America cambia pagina, il popolo americano non ne vuole più sapere della guerra, eccetera, eccetera. Poi arrivarono i dati e il titolo del manifesto, Luciana, tu ricordi come il giro del manifesto cambiò e disse buonanotte America, perché poi purtroppo era successo quello che era successo, ossia che George Bush era stato purtroppo rieletto. Ecco, era già successo con la Germania. Il tribunale di Norimberga giustamente intendeva processare i criminali di guerra nazisti proprio perché voleva salvaguardare i tedeschi da quello che avevano fatto. Ma si può dire che il popolo tedesco fosse del tutto innocente? Ecco, in questo libro, alla fine, io ho trovato molto interessante quello che ha fatto un generale americano, il generale Patton, che si trovò ad aprire il campo di Buchenwald, e Buchenwald a 9 chilometri da Weimar. Weimar era la città di Goethe, la città di Schiller, la città dell'umanesimo tedesco, e fu talmente orripilato da quello che vedeva dentro il campo di sterminio che chiamò Eisenhower e gli disse mandate i cinque operatori, mandate tutti quanti. All'epoca l'esercito americano aveva tutta Hollywood al seguito, c'era Billy Wilder che faceva il combat film tra gli altri e tanti altri, no? E quindi cominciarono a prendere foto, a fare filmini, tra l'altro Life, che era la più grande magazine, rivista, rotocalco americano di quegli anni, pubblicò queste foto la settimana dopo, no? E questo generale Patton acchiappò un gruppo di cittadini di Weimar e gli fece fare una bella passeggiata, e si vedono i filmati, no, di questi combat films, tutti quasi allegri, ben vestiti, la borghesia tedesca che cammina e da Weimar va al campo di concentramento e trova dentro il campo di concentramento delle guide eccezionali. Queste guide erano i sopravvissuti, gli fanno vedere i pettini fatti con le ossa umane, gli fanno vedere tutti questi cadaveri di persone sterminate, denutrite, i paralumi fatti con la pelle umana e tutte queste cose. Una cosa che fu subito, appunto perché era diventata nota, ripresa da Thomas Mann, e nel Dr. Faustus, nelle ultime pagine, dice: intanto un generale d'oltreoceano fa sfilare la popolazione di Weimar davanti ai crematori di quel campo di concentramento e dichiara, dobbiamo dire a torto, quei cittadini che hanno tenuto dietro apparentemente con onore ai loro affari e tentato di non saper nulla, benché il vento portasse alle loro nari il puzzo di carne umana bruciata. Li dichiara correi, degli errori ormai smascherati ai quali li costringe a rivolgere lo sguardo. La nostra vergogna, la vergogna del popolo tedesco, esposta agli occhi del mondo dalle commissioni straniere. Uomini tedeschi, a decine, a centinaia di migliaia, hanno commesso ciò che fa rabbrividire l'umanità, e ogni forma di vita tedesca fa orrore ed esempio del male. Ecco, allora, guardiamo a queste lezioni e guardiamo a queste lezioni nel mondo contemporaneo. Oggi stiamo parlando di un caso tragico, che è quello del conflitto tra Israele e Palestina. Israele è una società vivace, ha una società vivace, profondamente democratica, in cui si discute di tutto, si discute animatamente di alcune questioni che sono alla frontiera dei diritti in tanti altri paesi. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, il diritto all'eutanasia, e dibattiti avanzati analoghi a quelli che possiamo avere nei paesi più progrediti. E allo stesso tempo, all'interno di questo paese, c'è una forte maggioranza che in libere elezioni continua a sostenere un governo che commette un'occupazione che è brutale, e che oltre a essere brutale non porta nulla di buono neppure alla società israeliana. Come ne usciamo? Se ne può uscire in qualche modo? C'è un modo per uscire da questa contraddizione di quando abbiamo un popolo democratico che viene opposto? Sappiamo bene che gli strumenti del diritto internazionale non possono essere attivati, purtroppo. Non possono essere attivati per la semplice ragione che, ad esempio, Israele non è membro, non partecipa alla Corte Penale Internazionale. La possibilità di riferire lo Stato alla Corte Penale Internazionale è ostacolata dal veto che mettono i membri del Consiglio di Sicurezza, per cui difficilmente si può ottenere quello che è successo, ad esempio, per al-Bashir, presidente del Sudan. E quindi i canali tradizionali non sono al momento attivabili. I tribunali d'opinione, come quello appunto per i crimini di guerra in Vietnam, come quello che Richard e i suoi colleghi hanno fatto per l'invasione in Iraq, nel libro ci ho messo una foto di Richard quando fa il discorso originario, insieme anche a una foto di Lelio Basso quando al Teatro Argentina nel 1976 lesse la sentenza finale per il tribunale sulla tortura in America Latina. E questa è una delle possibilità, ma probabilmente non basta, perché la impressione fondamentale della società israeliana è di essere accerchiati da un mondo ostile che ce l'hanno con loro in quanto israeliani, e non che ce l'hanno con loro soltanto perché fanno delle politiche sbagliate. E lì dobbiamo un'altra volta trovare delle soluzioni innovative. Io non potrò mai dimenticare una delle più vivaci esperienze didattiche che ho avuto in vita mia a Rovereto, nell'anno 2000, mi sembra, l'opera campana dei Canuti, qualcosa del genere, in cui il movimento della società civile aveva organizzato una classe in cui c'erano 25 studenti israeliani e 25 studenti palestinesi, che stavano lì a discutere animatamente. A volte la classe mi sfuggiva perché cominciavano a battibeccare tra di loro in ebraico, e quindi io non avevo più nessun controllo della situazione, ma che alla fine era un dialogo che riusciva a portare qualche cosa. Le iniziative del genere ne servirebbero centinaia, ne servirebbero migliaia, e servirebbero, oltre ai tribunali, anche attivare in Israele e in Palestina quelle commissioni per la verità e la riconciliazione che sono state fatte in Sudafrica. Ricordiamocelo, una delle innovazioni che non viene dal mondo, diciamo così, occidentale liberale, in cui in tutti i villaggi del Sudafrica ci sono state delle persone che hanno raccontato i torti che hanno subito e che, voglio dire, hanno avuto il riconoscimento almeno delle vittime. Non abbiamo bisogno di sentenze. Ecco, pensiamo a quello che è successo nel nostro paese. Nel nostro paese, dopo la guerra, abbiamo avuto prima di tutto una giustizia sommaria, no? Una giustizia sommaria che era anche inevitabile, se vogliamo. Dopo questa giustizia sommaria abbiamo avuto l'amnistia, si è coperto tutto. Nessuna delle risoluzioni va bene. Non vanno bene la giustizia sommaria, non vanno bene le amnistie. E qua un punto tecnico che mi sembra molto importante, che è stato introdotto nel Cile, quando a un certo punto Pinochet si è appellato alle amnistie che lui stesso si era fatto, e alcuni giudici hanno detto: momento, noi non neghiamo l'amnistia, ma per concedere l'amnistia bisogna sapere quali sono i reati commessi, chi li ha commessi, dove e quando. Una volta che c'è il riconoscimento dei reati, magari possiamo pure garantire l'amnistia, e magari l'amnistia ce la caviamo con l'interdizione dai pubblici uffici, no? Un aspetto, non con una prigione, non con una sanzione retributiva, però prima di tutto bisogna avere la verità, e sulla base di questo criterio hanno negato l'amnistia a Pinochet e hanno riaperto una quantità di procedimenti contro i responsabili dell'autorità cilena. Ecco, io credo che queste sono oggi le sfide che ancora ci aspettano per la questione palestinese, e queste probabilmente, dice Richard, e che è senz'altro molto più esperto di me della questione, io quello che so sulla questione palestinese lo so da lui e da altri colleghi, dice: la soluzione dei due stati è morta. E certo, la soluzione dei due stati la stanno ammazzando in tutti i modi possibili e immaginabili, ma qualunque sia la soluzione, qui diventa indispensabile avere un progetto per la pace in Palestina, come in altre parti del mondo, e questo progetto può essere soltanto basato sulla base di una verità e riconciliazione. Io credo che abbiamo qualche minuto, e se ci sono degli interventi dal pubblico, che immagino che forse vorranno interloquire non solo con Daniele ma anche con il professor Folk. Prego. Se per favore dice nome e... Thank you. credo che se siamo stretti riusciamo a prendere tutte e due le domande e poi diamo la parola al professor Ford. Prego. Nietzsche. Grazie. Signora. Sì. Channel. avvertirli. Grazie. Io penso che il privilegio di avere avuto qui il professor Folk fa sì che noi lasciamo a lui di concludere con la risposta a queste questioni poste da voi in questa riunione, in maniera tale che se Daniele è d'accordo, e quindi darei la parola al professor Folk e poi concludiamo. Grazie. Thank you for these very searching questions, which I cannot even pretend to do justice to in trying to respond. I think that many important issues were raised. I would clarify the presentation I tried to make, which did emphasize, this is really directed at Vera, that I did suggest and do believe that Zionism is at the core of the Israeli project as it has evolved, and that without some reformulation of what Jewish objectives are in the country that is called Israel and the occupied Palestinian territory, there must be an abandonment of the claim of being a Jewish state. And that also goes to the earlier comments about the fact that among the victimized Palestinians are those that are living internal to Israel itself. And no modern state can be legitimate on the basis of claiming ethnic or religious exclusivity. And that is at the core of the Zionist identity, the movement from its beginning. And one thing that's important to understand about Zionism is that at each stage, it accepted as much as it could get from the international system and pretended that that was all it wanted. But as soon as it achieved the earlier goals, it then took steps to realize the full biblical maximalist goals of occupying and establishing Israeli sovereignty over the entire promised land, so-called, and substituted a biblical claim of entitlement or a religiously based claim of entitlement for the general understanding of modern rights of self-determination, which are not based on religious and ethnic claims, but are rather based on geographic presence and a physical relationship to a given territory. And the only way that, as I tried to indicate, the only way the Zionist project could be realized was by displacing those who were resident in the territory and creating a superimposing on the basis of colonial entitlements a religiously labeled state, an ethnically labeled state. So I think it is important to connect the ideology of Zionism with the problematics of finding a solution to peace. And why I think the apartheid understanding of the structure of subjugation is so important is that it is, in my view, the one and only path that leads to peace. Because until you and this was true in South Africa too, until you dismantle the structure of racial subjugation, no negotiation can lead to a sustainable peace. Once you make the drastic adjustment and say, we will live on the basis of equality between the two peoples, then it is possible to imagine a political solution. And that imagining must be left to the Palestinian people and to the Jewish people that inhabit that territory. The international community has done much damage, including the partition resolution of 1947, which was done without any reference to the wishes of the majority population that was living in Palestine at the time. So the whole history of this conflict is dominated by this international paternalism, first in its colonial form, in the Balfour Declaration and the mandate system, and then in its geopolitical form that occurred at the end of World War II and was historically, of course, conditioned by the Holocaust and this sense of liberal guilt about not doing very much to protect the Jews from Nazi genocide. But you can't solve the problem of European moral failure at the expense of the Palestinians. And that's what was done from the beginning. And that is something that the world has been reluctant to acknowledge. Maybe I should let you say cruel and unusual punishment. Innanzitutto grazie per le domande e i commenti, estremamente interessanti, e io tenterò di fare giustizia il più possibile a ciò che avete detto, farò del mio meglio. Come dicevo, sono stati sollevati dei punti estremamente interessanti e importanti. Io nel mio discorso, e qui penso soprattutto al commento di Vera, ho voluto sottolineare proprio questo aspetto, cioè io credo che il sionismo sia nel cuore, al centro del progetto di Israele, e se non riusciamo a riformulare quali sono gli obiettivi di Israele, non riusciremo a trovare una soluzione. I was very confused. perché sarà impossibile far sì che venga abbandonata questa idea di uno Stato ebreo. Ciò che porta avanti Israele e non è legittimo è questa esclusività della razza, ed è proprio questo il punto, il cuore dello sionismo. Quindi secondo me è importante capire che questa idea del sionismo, quindi questa pretesa di far rispettare il diritto biblico sostenuto dallo sionismo, spesso viene confuso con questa idea di autodeterminazione. In realtà sono due concetti diversi. E questo, come dicevo, viene, questo progetto degli sionisti viene portato avanti proprio in questo fenomeno almeno di espulsione dei palestinesi al di là dei confini, imponendo di fatto proprio a livello coloniale uno Stato con una sua etnia e con una sua religione. Quindi se non riusciamo a gestire questo progetto del sionismo, effettivamente sarà impossibile arrivare alla pace alla fine. Io ritengo quindi che sia anche importante capire l'apartheid e perché c'è, perché solo così si potrà arrivare a una soluzione positiva, perché l'abbiamo visto anche in Sudafrica. In realtà, se non riusciamo a smantellare questa struttura di cui ho parlato nel mio intervento, non si arriverà a una soluzione. Quindi vediamo come i fenomeni siano legati. Solo nel momento in cui questi due popoli potranno vivere da uguali, essere trattati in modo equo, si potrà poi passare a un'altra soluzione politica. E questo è però un aspetto che dobbiamo lasciare alla popolazione, alle due popolazioni in questione, perché a livello internazionale sono stati provocati molti danni, a partire dal progetto di partizione del 47, che non ha tenuto conto della situazione della popolazione in Palestina. Quindi questo paternalismo internazionale ha creato, che ha assunto prima una forma coloniale, poi una forma geopolitica dopo la Seconda Guerra Mondiale, dovuta ovviamente all'Olocausto e all'idea che si dovesse fare di più dopo ciò che era successo per Israele, ha creato dei danni, e finché non verrà riconosciuta questa forma di paternalismo e i suoi danni, non si potranno fare molti passi avanti. Just one more small point. I think Daniele raised a very important observation in two different contexts. The unwillingness of Israel to engage in dialogue. And you have to ask the question, why is Israel and strong supporters of Zionists not willing any longer to engage in dialogue? Because that's a fact, and it is a new fact. It wasn't always the case. And so we have to, is it because Israel thinks it doesn't need to engage in dialogue because it has won, that it is essentially doesn't have to take account of what the other side, quote unquote, has to say? Is that the explanation of the refusal of dialogue? And then to throw a little bit of skepticism toward the student interaction, the 25, you have to be careful about when the slaveholder talks to the slaves. You know, it's a situation where you can live in a kind of bubble that doesn't translate. These kinds of interactions have been satisfying the participants for 50 years, and nothing changes. In fact, the Israeli public opinion and the leadership has moved steadily toward this no dialogue, no need for dialogue. So what do we say? Are there limits to dialogue under conditions of apartheid? Really, could you expect anything to emerge in South Africa between the Africans subject to apartheid structures and the Afrikaners that believed this was the way to govern the country? It was an issue that was posed as one of either them or us. It was a zero-sum connection that was changed only by the international campaign that created so much pressure on the South African elite that they woke up and decided they'd be better off giving up apartheid than continuing to live in this way as a pariah state. See, Israel, with its geopolitical... Okay. Let me just finish that sentence. And then you should talk for an hour or so. Israel, with its arms sales to 100 countries, with the geopolitical leverage given to it by the U.S. and Western Europe, with its own military capabilities and its sense of legitimacy and right that isn't based on some apartheid theory, but based on the illusion of being the only democracy in the Middle East, which is a mind game. It has nothing to do with the real circumstances imposed on the Palestinian people by a legal structure and a military structure. And it's suppressive and creates a daily ordeal for everyone subject to it. Daniele prima ha fatto un'osservazione molto importante. Prima di tutto che Israele non cerca, non vuole il dialogo. E quindi bisogna chiedersi per quale motivo i sostenitori del sionismo non cercano, non vogliono un dialogo. È un dato di fatto, un fatto nuovo, non è sempre stato il caso, ma adesso è così. Forse perché non si ritiene responsabile di ciò che viene detto o asserito dall'altra parte, parlando sempre ovviamente delle due parti. Poi prima c'è stato anche un commento su questo incontro tra studenti e io ritengo che lì sia necessario essere molto cauti nel momento in cui lo schiavista parla con gli schiavi. Viene a crearsi una specie di bolla che dà soddisfazione ai partecipanti, ma vi sono stati tentativi così negli ultimi 50 anni e di concreto poi non è stato realizzato niente. Quindi possiamo parlare di come di dover limitare, possiamo parlare di limiti di dialogo in una situazione di apartheid? Questa è un'altra domanda da porsi. In Sudan, nel caso del Sudafrica, sarebbe stato possibile avere un dialogo ai tempi con la struttura dell'apartheid tra le parti? Se non ci fossero state delle campagne internazionali che hanno messo la pressione sull'elite africana, cosa sarebbe successo? Perché grazie a questa pressione che Lelit si è resa conto che sarebbe stato meglio accantonare il progetto per l'apartheid per evitare di restare il paria tra le nazioni. E in ultimo, guardiamo Israele. Israele può far leva, ha il potere di far leva su molti stati, ha una produzione di armi, ha un esercito potente e ha soprattutto questo senso di legittimazione che in realtà è un'illusione, è illusoria, ovvero l'idea di essere fondamentalmente l'unica democrazia in Medio Oriente, quando dai fatti vediamo tutti ovviamente che questo non è il caso. Io sì, voglio dire adesso veramente telegrafico perché siamo arrivati, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo su due aspetti, per quanto non sia competente di questa materia. Uno, non sono d'accordo sul sionismo, cioè non credo che il problema sia il sionismo. O meglio, se il problema è il sionismo, non è un problema che a me interessa, perché probabilmente in tutti i casi di autodeterminazione dei popoli, da quello catalano a quello spagnolo a quello di qualsiasi altra parte, c'è sempre qualcuno che perde la brocca e che pensa che ci siano problemi etnici, religiosi e altre cose del genere. Il problema non è quello, quindi uno lo deve ignorare e dire che i problemi si risolvono creando degli stati laici o delle comunità politiche laiche in cui tutti quanti possano partecipare. Se qualora il problema fosse il sionismo, è un problema che devono risolvere loro e non è un problema su cui la comunità internazionale, secondo me, deve intervenire. Due, ditemi voi qual è la soluzione. Io ve lo dico, non lo so e neppure mi interessa, nel senso che se la soluzione è uno Stato liberale in cui tutte le comunità siano rispettate, con diritti scolastici, diritti linguistici, diritti religiosi, per me va benissimo. Così come va benissimo se riescono ad attuare questa soluzione in Catalogna, nel Quebec, nell'Irlanda del Nord e in tutte le zone in cui ci stanno conflitti per l'autodeterminazione. Se la soluzione è quella di dividere le due comunità, per me va bene. Quindi che cos'è che da un punto di vista cosmopolitico, secondo me, ci deve riguardare? Uno, che alcuni diritti individuali siano comunque rispettati, qualsiasi sia la comunità politica, e quindi che siano rispettati i diritti dei catalani in Spagna o degli spagnoli in Catalogna, no? Degli israeliani in Palestina o dei palestinesi in Israele, e due, che non ci sia violenza. E da questo punto di vista lo so bene che il dialogo non sempre funziona, lo so bene, ma e qua io voglio dire, insisto su questo: quando c'è un conflitto tra lo schiavista e lo schiavo non ha sufficientemente forza per liberarsi dello schiavista, il dialogo comunque sia fornisce una posizione che è favorevole allo schiavo, non allo schiavista, perché senza dialogo e senza rapporti di forza adeguati la posizione dello schiavo è ancora peggiore di quella che sarebbe in una situazione in cui c'è dialogo. E purtroppo è venuto fuori in 50 anni di conflitto che i rapporti di forza sono stati tali per cui la posizione dei palestinesi è progressivamente peggiorata. E allora, se questi sono i rapporti di forza, io credo che non ne possiamo ignorare. Per cui, voglio dire, credo che la nostra responsabilità non sia soltanto quello di rivendicare tutte le cose che fanno le associazioni qui e che sono del tutto d'accordo, il boicottaggio, come dire, tutto quello che può essere utile, ma anche far leva su una società interna israeliana, per avere in questa società israeliana oggi minoritaria, oggi mortificata, oggi priva di coraggio, che possa essere un interlocutore fondamentale per giungere ad una soluzione che sia vantaggiosa per il popolo palestinese. Questo io lo so che è un punto di disaccordo su cui, voglio dire, rivendico. Just a word. I think we do agree fundamentally. I just think one shouldn't have allusions of that dialogue, and I do think that it is revealing and significant that Israel and its strong supporters are no longer interested in dialogue. I mean, what that tells us is very significant about the stage of the conflict. And beyond that, people of goodwill and so on both sides, of course, it's important as part of a humane approach to conflict and struggle and being compassionate toward both peoples. Of course, it's helpful to engage in dialogue, but it should be done without a sense that it can achieve the outcome. Unless the political climate has to change, and until the political climate, that's why I think the BDS movement is so important, because it's addressing the political climate and doing what governments and the UN have failed to do, or trying to do that. And the burden of, or let me put it differently, the locus of hope now is with civil society activism. It's no longer with diplomacy, armed struggle, or international law and the UN. See, and to wake up to that reality seems to me to be the most important contribution people like ourselves can make to a constructive engagement with this terrible situation that is confronting both peoples, I would say. It's not, it's of course much more damaging to the Palestinians on a daily ordeal, but it has also undermined the integrity of what Israelis tried to establish within the country. So it is something that I think in the end, the abandonment of apartheid will be beneficial for the Jews as well as for the Palestinians, in my view. And I think that's also borne out by the post-apartheid development of South Africa, which still has severe problems, but there are problems that are humanely negotiable at this stage, which they were not during the apartheid phase. Let me really stop. Io ritengo che fondamentalmente abbiamo la stessa opinione in realtà. Io voglio però soltanto dire che non bisogna farsi delle illusioni riguardo al dialogo, più che altro questo. Israele e i suoi potenti sostenitori non cercano un dialogo. Questo cosa ci dice? Ci dice che siamo in una fase diversa ormai del conflitto. È ottimo ed è bello sapere che vi sono delle persone dalla buona volontà, e ritengo che l'approccio umano che deriva dal dialogo sia comunque molto bello e possa aiutare, ma non bisogna comunque pensare che questo possa portare ai risultati che noi tutti speriamo. Ciò che è necessario è un cambiamento del clima politico, ed è per questo, solo così potranno avvenire dei cambiamenti, ed è per questo che ritengo fondamentale le azioni, il lavoro svolto dal movimento BDS, che va a colmare una lacuna creata anche dagli errori, dai fallimenti dell'ONU e degli Stati Uniti. Adesso dobbiamo parlare di attivismo da parte della società civile, non più soltanto di ONU o di diritto internazionale. È importante aprire gli occhi, e ritengo che questo aprire gli occhi, rendersi conto di come la situazione sia cambiata, sia il contributo più importante che possiamo dare tutti. Ed è importante per poter gestire la situazione in modo costruttivo. Una situazione che crea difficoltà e sofferenze da ambedue le parti. Ovviamente a soffrire maggiormente sono i palestinesi, però anche Israele rischia di perdere le fondamenta, le basi di ciò che ha creato negli anni. Quindi, infine, io ritengo che l'abolizione dell'apartheid possa portare dei vantaggi ad ambedue le parti. E questo può essere dimostrato se pensiamo alla fase, al periodo post-apartheid proprio del Sudafrica. È vero che vi sono ancora delle difficoltà, dei problemi, ma rispetto a prima sono, come dire, umanamente negoziabili. Questo è il grande cambiamento. E adesso dico stop. Grazie ancora. Avanti al professor Folk in primo luogo. È chiaro che la Fondazione, per parte sua, insieme con Asso Pace, eccetera, continuerà nel suo mestiere, che è quello di cercare di continuare a far aprire gli occhi all'opinione pubblica nazionale e internazionale. Grazie a tutti.